difficile, lo so, però è meglio. Musica allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Musica più lenta che mace che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi Tag, di Gigi Tag, Gigi Tag, Gigi Tag, Gigi Tag, Gigi Tag. Infinito a tutti gli ascoltatori e a tutti i danzatori che mi hanno permesso di concretizzare il mio sogno lento violento, un sogno che vive dentro di me da sempre. Senza di voi il mio sogno non l'avrei mai toccato. Oggi esiste, è un piccolo mondo e lo abitiamo insieme. Grazie. Per non subire un qualcosa devo essere sicuro di aver scelto liberamente. Di aver scelto liberamente quel qualcosa. E sì. Stai ascoltando Passetto. Artista non pervenuto. Artista. Io credo che il nostro lato emozionale segua un suo percorso. Segua un suo percorso. Segua un suo percorso. Non dettato dalla ragione. La ragione. La ragione. Per fortuna. Per fortuna. Ho 38 anni. Ma continuo ad essere un bambino. Ma continuo ad essere un bambino. Privo di filtri deformanti. Un bambino che ama. A prescindere. A prescindere. Certo, i filtri li ho anch'io, ma me li deformo da me, col secondo me. Never time run to my heart. Lead your life into the destiny of love. Walk it hand in hand and then hold me tight when I look into your eyes. I've been waiting for your love. All your life just for the destiny of love. I adore. sabato suonerò la mia musica, i miei ritmi alla discoteca MEP. Via La Tiro 21, Sestri Levante, Genova. Ci vediamo lì. Ci vediamo lì. Ti sei perso un'altra volta? No. C'è Gigi D'Agostino. Fermati, ascolta. Lento, violento. Lento, violento. È il sogno lento, violento. Si è concretizzato grazie a tutti voi, grazie ai danzatori e agli ascoltatori. Grazie. È un'onda, è un movimento, un pensiero. Uno stile di vita. Terapia comportamentale del suono. Ecco. Marcia semplice. Prima un piede, poi l'altro. È una marcia. È una marcia. Il cammino di Gigi D'Agostino. Un programma non programmato. Un gesto involontario. Questa mi ammazza. Mi devo sedere un attimo, scusate. Benessere inoltrata. Il mondo sta cambiando, la musica cambia. Momento esperimento. Becca di sto tormento. Esperimento. Tormento. Perciò e pertanto. di sto tormento. Il disco esperimento di oggi è... Lento violento. giganti. D'Agostino. La camminata quotidiana. Stai ascoltando Why Me? Canzone la scegli in base a come stai, a dove vai, a cosa sei, in quel momento. In quel momento. Sei tu che costruisci l'emozione che ti sta dando la canzone. Looking new. sei una persona capace di farmi tremare anche senza la tua presenza. Senza la tua presenza. Lo fai penetrando i miei pensieri. I miei pensieri. E percorrendo con me i più scuri sentieri. Gigi D'Agostino non è un programma molto preciso, Electro, ma è fatto da un cuore molto deciso. Electro, Electro, Electro, Electro, Electro, Electro. È inutile che fai quella faccia. Electro. Electro. Electro. È inutile che fai quella faccia. Electro. Electro. Electro. Electro. Electro. Electro. Suoni e ritmi, quel da scantinato. Qualche suono, maltrattato. Nel programma col cuore di un bambino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Te stai comodo in salotto, perché io suono alle 18. l'aperitivo. L'aperitivo di oggi è... Bello, mi piace. Cos'è? programma col cuore di un bambino è Il cammino di Gigi D'Agostino. Stiamo ascoltando, fratello. Thank you. Ho già detto, mo la sigla va a sfumare perché devo respirare. Ah.